Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, rubrica di rassegna delle novità che trovate sui magazine, sui settimanali, sui mensili italiani e stranieri. Mi sembra giusto, l'ora mi sembra data per cominciare parlando di caffè. Parlo di caffè perché ne parla Il, come sapete Il è il mensile che viene proposto insieme al Sole 24 Ore nel numero di ottobre. Tra le varie curiosità che come sempre propone Paolo Martini nella sua pagina intitolata appunto Cocktail Martini, c'è anche una curiosità che riguarda il caffè. Vi dico subito che sorprendentemente noi italiani non siamo affatto in cima alle classifiche delle nazioni che bevono più caffè. Siamo invece soltanto al 44esimo posto della classifica mondiale. Chi ha fatto questa classifica? L'ha fatta Business Week, riferisce Paolo Martini, sulla base di vari indici. La classifica dei paesi più caffeinomani del mondo, dice Martini, nasconde numerose curiosità anche oltre il 30esimo posto, perché scendono tra l'altro due tra i produttori più importanti, il Brasile che è al 37esimo, la Colombia 30esima, e salgono tre nazioni che si pensa tradizionalmente più bevitrici di tè: la Bielorussia, la Turchia e l'Ucraina. Chi sta al primo posto? Ma allora alla fine chi è che beve più caffè tra tutti nel mondo? La Finlandia. Risulta che i finlandesi bevano 608 e spiccioli litri pro capite di caffè all'anno, quindi una quantità imponente, seguiti ma a molta distanza dai norvegesi. I norvegesi si fermano a 322 litri pro capite, e poi ci sono i danesi 180 litri, i tedeschi più indietro 145 litri pro capite all'anno di caffè, e così via, scendendo poi la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Svezia, il Regno Unito. Ripeto, l'Italia, per trovare l'Italia dovete andare fino al 44esimo posto della classifica, perché l'abitudine nostra naturalmente all'espresso e al ristretto ci assegna un numero molto molto basso di litri pro capite di caffè, quindi 31,8 litri. Beh, mi sembrava un dato interessante, oltretutto il caffè a quest'ora credo ci stia bene. Un'altra cosa che può essere adatta all'orario in cui stiamo andando in onda è quella del pettine, perché Lisa Furlan, in una pagina di Il, sempre del magazine Il, che trovate con il Sole 24 Ore, si occupa proprio dei vari tipi di pettine, forse di pettini maschili soprattutto, e quella cosa è particolarmente utile perché magari molti di noi non fanno assolutamente caso a quale tipo di pettine acquistano. Invece, come spiega questa pagina con tanto di fotografie e di vari modelli di pettine, ci sono i diversi tipi che servono a seconda della capigliatura, quindi ci sono quelli cosiddetti inglesi, pettini all'inglese, che servono, vanno bene per i capelli corti e medio lunghi, poi ci sono invece quelli che vanno bene per i capelli più lunghi e possono essere quelli fatti a radone, o il tascabile fitto che va bene per i medio lunghi. Il grande rado fitto è una caratteristica di pettine che va bene per i capelli corti ma anche per i capelli lunghi, infatti viene definito come il pettine ideale per tutta la famiglia. Se volete vedere com'è fatto, vi rimando alla pagina 162 di Il, che trovate appunto in edicola con il Sole 24 Ore. E concludiamo lo sfoglio di Il, del nostro mensile, con un oggetto che ci è entrato nella vita quotidiana in modo prepotente e oramai caratterizza, è assolutamente domestico, è assolutamente noto a tutti, i bambini imparano a usarlo da subito. Sto parlando del telecomando. Il telecomando è un oggetto che è relativamente giovane, non da molti anni, insomma. I televisori sono normalmente dotati di telecomando, fino a qualche decennio fa non lo erano affatto. Ma quando è nato il telecomando? È nato nel 1956, si dice per convenzione, perché in realtà la Zenith, la casa cioè che aveva messo a punto il telecomando, aveva già presentato un modello negli anni precedenti, ma il primo veramente funzionante è stato quello poi del 1956. Allora, quando è cominciato tutto questo? Con un apparecchio che era pensato non soltanto per cambiare canale, ma anche per spegnere il televisore quando gli spettatori si addormentavano, oppure per togliere il volume quando partiva la pubblicità. Perché? Perché il fondatore e il presidente della Zenith, che si chiamava Eugene McDonald Jr., non sopportava la pubblicità e allora mise a punto questo apparecchietto che consentiva di ridurre il volume o addirittura di spegnere il televisore quando partivano gli spot pubblicitari. Non era il primo tentativo, scrive Joe Moran su Il, non era il primo tentativo della Zenith in questo campo. Il suo primo telecomando era a forma di bomba a mano, era stato lanciato nel 1950, però in realtà era un sintonizzatore a motore che si collegava al televisore con un cavo. Poi ci fu un modello leggermente meno primitivo, si chiamava Flashmatic, venne presentato nel 55 e usava il metodo dei fasci di luce, però aveva un inconveniente: a volte la luce del sole battendo sullo schermo poteva provocare un cambiamento di canale e quindi così sorpassare il telecomando. Arrivò finalmente il papà dei telecomandi odierni, si chiamava Space Command, usava gli ultrasuoni e naturalmente risolse questi problemi iniziali, ebbe molti imitatori subito in America. Diventarono poi più comuni in Gran Bretagna solo quando furono introdotti i modelli a infrarossi. I modelli infrarossi sono poi quelli sostanzialmente che usano la tecnologia che utilizziamo anche oggi. E questo avvenne a metà degli anni 70, anche perché nello stesso periodo cominciò a crescere il numero di canali satellitari e il numero di canali della TV via cavo, quindi dalla fine degli anni 80 in poi. Il telecomando diventò così un accessorio essenziale, perché quando c'erano solo 3 o 4 canali terrestri, qualcuno degli ascoltatori, nonché il sottoscritto, lo ricorda, lo zapping non era realmente una necessità e infatti per lo più si subiva il canale che era stato scelto fino alla conclusione del programma, quindi non c'era tutta questa necessità del telecomando. Oramai il telecomando ha cambiato, scrive sempre Joe Moran, anche la natura della programmazione televisiva. Molti curatori dei palinsesti non si preoccupano più di strutturare un'offerta variegata di intrattenimento, sanno benissimo che gli spettatori useranno il telecomando per farsi la loro programmazione personale. Quindi cosa fanno? Adottano delle tattiche diversive, come quando facciamo con i bambini dando loro un giocattolo che cigola o che fa rumore. La TV digitale interattiva cerca di dissuadere lo spettatore a cambiare canale tenendolo occupato con il telecomando. Quindi si moltiplicano, cominciamo a vedere sempre più frequentemente questi messaggi: premete il pulsante rosso o altri tipi di interazione tra telecomando e telespettatore. E in questo modo quindi cercano di convincerci a non fare il temuto zapping che fa perdere i contatti. Tutto questo su Il di questo mese, in edicola con Il Sole 24 Ore. E allora, parlando di televisione, non si può non dire che domani ritorna Il Grande Fratello. Ne parlano diversi magazine, questa settimana ne hanno parlato diversi magazine. Da lunedì 18 riparte su Canale 5 Il Grande Fratello, la nuova edizione. Ne abbiamo parlato tra l'altro anche una settimana fa, perché cominciavano a circolare proprio sui magazine, magari quelli più dedicati alle questioni televisive, delle anticipazioni sulle novità dell'anno, ma ormai appunto incombe la partenza della nuova serie. Sorrisi e Canzoni TV presenta questa nuova serie in un modo un po' curioso, perché intervista i due conduttori del programma, cioè Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini. C'è la particolarità che Alfonso Signorini poi è il direttore di Sorrisi e Canzoni, quindi una sorta di intervista al direttore che viene proposta sulle pagine di Sorrisi e Canzoni. Ci sono alcune delle novità che vengono poi qua e là confermate l'intervista. Si dice Alessia Marcuzzi, appunto, ci sarà una stanza di passaggio, un luogo cioè dove altre persone potranno sostare per un tempo che potrà essere breve o lungo, e sono persone che possono anche non aver niente a che fare con i concorrenti. Allora, tutte le novità del Grande Fratello, che ripeto viene poi presentato qua e là anche da altri settimanali, da domani su Canale 5, da lunedì 18 la nuova serie. E allora, pochissimo tempo prima di lasciare la linea alle informazioni sul traffico, vi posso annunciare che abbiamo parlato di televisione, ma adesso andremo a parlare poi di cinema, perché su Vanity Fair questa settimana c'è una bella intervista a Michael Douglas in occasione appunto del ritorno di Wall Street, cioè la seconda puntata di Wall Street. Questa volta appunto Michael Douglas interpreta un Gordon Gekko, cioè questo speculatore, questo pesce cane degli anni Ottanta, decisamente cambiato, e sono tutte le novità che vedremo poi al cinema. Il film, tra l'altro, è atteso nelle sale dal 22 di ottobre. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, vi avevo annunciato questa intervista a Michael Douglas, intervista che trovate su Vanity Fair, intervista è stata fatta da Stephen Roddick, ci sono anche delle foto di Annie Leibovitz che la corredano. L'intervista si intitola Scusi, non ho tempo, perché leggendola si coglie proprio questa riduzione del tempo di cui Michael Douglas sembra soffrire. Tra l'altro ha avuto anche degli incidenti dal punto di vista della salute, e quindi il suo tempo è diventato comunque prezioso. Qua e là ricorda anche dei passaggi relativi appunto al rapporto con suo padre, Kirk Douglas, attore famosissimo quanto lui, forse anche più di lui. Kirk oggi è anziano, scrive appunto Roderick, la gente sembra aver dimenticato i suoi lati più spigolosi, era una testa calda con cui era difficile lavorare, e il fatto che abbia trascorso ben poco tempo con i suoi quattro figli, Peter, Eric, Joel e Michael, che è il più grande. Nel periodo scolastico Michael viveva e studiava in collegio, andava a trovare suo padre sul set, quelle visite non gli facevano venire alcuna voglia di seguire la vocazione di famiglia, questo si legge, e infatti riferisce lo stesso Michael Douglas: già allora mio padre era uno che si arrabbiava facilmente, lavorava troppo, girava almeno 5 film all'anno, io cercavo di non intralciarlo, e così via, appunto ricordando questo rapporto non semplicissimo con una celebrità quale era suo padre. Poi naturalmente il 1987 con Wall Street consacrò definitivamente la carriera di Michael Douglas come celebrità, e scrive sempre Roderick: assegnare la parte dello speculatore, del pesce cane, questa parte che doveva essere di un antipatico a Michael Douglas, fu un tragico errore, se Oliver Stone, che era il regista, voleva che gli americani odiassero quel personaggio, perché Michael ribaltò il film, trasformò Wall Street in un omaggio da Oscar all'America del vincere a ogni costo. Un film che era fatto per mettere sulla graticola gli operatori di borsa diventò invece il loro testo sacro, perché faceva vedere certo il lato peggiore di quella categoria, ma allo stesso tempo la rendeva irresistibilmente sexy. E c'è anche, in previsione appunto dell'uscita che ci sarà questa settimana, la prossima settimana, del sequel, del seguito di Wall Street, un confronto tra gli oggetti più comuni o le caratteristiche dei personaggi tra il 1987 e il 2010. Ad esempio, una cosa che è molto cambiata è il telefono cellulare. Se avete visto il vecchio Wall Street, ricorderete che in una scena Michael Douglas impugnava un enorme telefono portatile con una robusta antenna. Naturalmente tutto questo oramai è antiquariato, perché nella versione del 2010 i telefonini sono tutti molto di dimensioni ridotte. Sono cambiate anche le figure femminili di contorno, sono cambiate naturalmente le capigliature. Ad esempio nel nuovo film la figlia di Gekko ha un taglio corto, un taglio di capelli molto corto, un po', scrive Vanity Fair, alla Giovanna d'Arco, e quanto a lui il giovane ha perso invece il gel a litri, che era d'obbligo negli anni 80. E poi i computer, naturalmente un'altra cosa che è profondamente cambiata tra il 1987 e oggi. Gli elefantiaci computer, leggo sempre da Vanity Fair, erano degli IBM bianchi con schermi neri e LED verdi, che ci riportano ai bei tempi di War Games, erano in ogni scena, come i telefoni neri, gli impermeabili, la matita da macellaio dietro l'orecchio degli analisti finanziari. Ora per il broker esiste solo una parola: ultrapiatto. E come sapete, Non ci sarà solo il film su Wall Street, stanno arrivando questi film su Facebook. Ne abbiamo parlato perché li abbiamo intercettati in qualche settimanale non italiano nelle puntate scorse. Ora sul venerdì, che avete trovato appunto Venerdì con Repubblica, Federico Rampini si occupa dei due film dedicati al creatore di Facebook e al fenomeno Facebook. Al di là del, appunto, dei film che stanno per arrivare, interessante segnalare qua e là qualche annotazione che lo stesso Rampini ci propone appunto su Facebook. Perché si parla così tanto di Facebook? Perché nessun mezzo, anche nell'era di internet che, come scrive Rampini, ci ha abituato alla rapidità, nessun altro fenomeno sociale ha avuto una diffusione così spettacolare, così drammaticamente estesa e così veloce. Non il computer, non il telefonino, neppure le molteplici geniali invenzioni di Apple, la stessa email, dalle sue origini pionieristiche, impiegò molto più tempo per diventare uno strumento universale. Facebook attualmente ha oltrepassato la soglia dei 500 milioni di amici, così appunto si definiscono gli utenti di Facebook. E poi qualche altro numero di questo fenomeno: 500 milioni appunto gli utenti, tra 8 e 11 miliardi di dollari il valore di Facebook, secondo le stime, 1400 dipendenti nel mondo, e l'incremento degli introiti nell'ultimo anno è stato del 38%. È stato un anno pessimo questo per Facebook come incremento degli introiti, perché nell'anno precedente avevano aumentato le loro entrate del 186%. Questo per far capire come mai anche il cinema abbia deciso di interessarsi a questo fenomeno, appunto al fenomeno Facebook. E allora restiamo su Facebook, ma parliamo invece non di come lo racconta il cinema, ma di come ci raccontiamo noi, perché su 7, che trovate ancora con il Corriere della Sera, nella rubrica Mix che viene curata da Donatella Bogo, scopriamo che mettere le fotografie su Facebook non solo sta ridando vita a una particolare corrente artistica, ma potrebbe anche essere più rivelatrice di quanto pensiamo nei nostri confronti. Allora andiamo con ordine. Sappiamo tutti che i social network, scrive Donatella Bogo, come Facebook, influiscono notevolmente sulla comunicazione e l'informazione. Non avevamo forse mai riflettuto sull'effetto che hanno nel campo dell'arte. Come la ritrattistica nel Rinascimento fu favorita dal perfezionamento degli specchi, oggi Facebook sta trainando la rinascita degli autoritratti, anche se gli utenti spesso non ne sono consapevoli. C'è anche una guida semiserie che viene proposta, è stata fatta naturalmente su un sito, e analizza le foto del profilo che ciascuno di noi può mettere su Facebook per vedere quali sono le caratteristiche delle persone. Alcune delle caratteristiche sono ovvie: naturalmente, se si lascia una foto con molta aria sopra la testa, o invece se si sceglie di mettere nella foto solo un particolare del proprio viso, è evidente che si vogliono dare messaggi differenti. Forse non è così scontato sapere che una foto che lascia molto spazio attorno al viso, molto spazio sopra e sotto il viso, indica una persona cerebrale, probabilmente religiosa, forse anche grassa. Quindi se non volete apparire tali, riducete senz'altro lo spazio al di sopra della testa nella foto. Se invece si sceglie di privilegiare un occhio, magari con dei capelli, si tratta di una persona timida, probabilmente potrebbe avere il naso storto, ma ovviamente nasconde questo dettaglio privilegiando un altro particolare. E poi lo zoom: se appunto lo zoom è molto indietro, quindi c'è una immagine molto ampia, si tratta più spesso di una persona introversa e solitaria, mentre una zoomata, per così dire, corretta, che mette in luce il viso, indica una persona equilibrata. E poi ancora l'angolazione: se la persona è un po' piegata da un lato o da un altro, potrebbe indicare che è una persona spiritosa; se è poco inclinata, se è un po' più inclinata addirittura che ama il rischio; e se è molto inclinata, diciamo intorno ai 45 gradi, beh, allora si tratterebbe di una persona volubile. Questo tutto quello che potremmo rivelare involontariamente su Facebook con i nostri autoritratti. L'ho prelevato da 7 nella rubrica Mix di Donatella Bogo. E con questa segnalazione si conclude la puntata di oggi di Magazine 24. Grazie a Filippo Auregi anche questa mattina in regia, grazie ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. Magazine 24 ritorna sabato prossimo. Buona domenica a tutti.